Capitolo 12. Ferdinand. Il giorno dopo la partenza di Arne, un paio di signore della città venute a far visita a Fru Hösewinkel erano sedute attorno al tavolinetto da caffè quando entrò Mally col mantello e la cuffietta, radiosa di felicità, pronta per uscire. Fru Hösewinkel le chiese dove andava ed ella rispose che andava a trovare Ferdinand. Le signore rimasero in silenzio e si guardarono. Fru Hösewinkel si alzò dalla poltrona e andò verso Mally, prendendola per mano. «Mia cara», disse, «non puoi più vedere Ferdinand». «Perché no?» chiese Mally stupefatta. «Ahimè, Ferdinand è morto», disse Fru Hösewinkel. «Ferdinand!» gridò forte Mally. «Sì, il nostro povero buon Ferdinand», disse Fru Hösewinkel. «Ferdinand!» gridò di nuovo Mally. «È stata la volontà di Dio», disse Fru Hösewinkel. «Ferdinand!» gridò Mally per la terza volta come a se stessa. Le due signore della città dissero che ne erano molto addolorate, davvero, e poi proseguirono riferendo per filo e per segno ciò che era accaduto a Ferdinand. A bordo della Sophie Hösewinkel, la notte della tempesta, era stato colpito da un pezzo di pennone che gli era caduto addosso e aveva subito gravi lesioni interne. Dapprima non erano sembrate pericolose, ma ieri era morto. «E così, dopo tutto, è stata la tempesta», disse una delle signore, «che ha dato la morte a quel coraggioso giovane». «La tempesta!» esclamò Mally. «La tempesta! No! Come potete dire questo? Debbo andare da lui, allora vedrete che vi sbagliate!» «Disgraziatamente non può esservi dubbio», disse l'altra signora. «Ed è una casa tanto povera. Ora come farà la sua povera mamma a tirare avanti? Ahimè, no, Mamsel Ross, non ci sono dubbi». Mally si fermò un attimo a riflettere. «Davvero, sì», sbottò a dire con forza. «Era sul ponte con me, sapete? Siamo stati insieme tutta la notte. Al mattino, nella capanna del pescatore, è stato lui ad aiutarmi a cambiare le vesti. E lo avete veduto tutti?» proseguì, voltandosi a guardare in faccia alle signore. «Che è venuto a terra nella barca con me? No, Ferdinand non è morto». Rimase nuovamente in silenzio. «Devo andare subito da lui», gridò. «Dio, pensare che non ci sono andata prima!» Le signore non sapevano come reagire a quell'agitazione folle e selvaggia e rimasero in silenzio, lasciando che la ragazza andasse per la sua strada. Mally arrivò in casa di Ferdinand proprio mentre il giovane marinaio stava per essere chiuso nella bara. Sua madre, i suoi fratellini e le sue sorelline e alcuni parenti che li avevano assistiti gli stavano intorno e con le loro vesti scure riempivano la scura stanzetta. Fecero tutti largo alla ragazza e la madre del ragazzo morto la salutò, la prese per mano e la portò avanti perché potesse vedere Ferdinand per l'ultima volta. Mally s'era precipitata giù per la strada come un ciclone e ansimava per la gran corsa, ma ora era immobile, come impietrita. Il giovane viso di Ferdinand su quel guanciale di trucioli era sereno come se gli stesse dormendo. La sofferenza e l'agonia vi erano passate sopra e se n'erano andate e si erano lasciate dietro così un'esperienza profonda, solenne. Mally non aveva mai veduto un cadavere né mai aveva veduto Ferdinand così calmo. Gli estranei che erano nella stanza stavano andando via quando era venuta lei e ora le dicevano addio e lei stringeva la mano a tutti, uno per uno, con gli occhi sgranati, muti. La madre di Ferdinand accompagnò fuori quei visitatori e Mally rimase sola con lui. Cadde in ginocchio, accanto alla bara. «Ferdinand!» chiamò con grande affetto e di nuovo «Ferdinand, caro, caro Ferdinand!» Siccome egli non rispondeva, ella tese una mano e gli toccò il viso. Il gelido freddo della morte si insinuò su per le sue dita. Se lo sentì andar dritto al cuore e ritirò la mano. Ma un attimo dopo ce la rimise e la lasciò riposare sulla guancia del ragazzo fino a quando le parve che la sua mano fosse diventata fredda come la guancia stessa. Poi cominciò ad accarezzare lentamente quel viso immobile. Sentì gli zigomi e le occhiaie sotto i polpastrelli delle dita. Intanto il viso di lei assunse l'espressione del marinaretto morto e i due finirono per assomigliarsi come fratello e sorella. La madre di Ferdinand tornò nella stanza e fece sedere Mally. Cominciò a dire di Ferdinand e che bravo figliolo era sempre stato per lei. Ne rievocò la breve vita, riferendo piccoli episodi e incidenti dell'infanzia e dell'adolescenza di lui, e intanto le lacrime le scorrevano giù per le guance. Ma quando cominciò a raccontare che Ferdinand aveva sempre messo da parte quasi tutta la paga per darla a sua madre quando tornava a casa, smise di piangere. Tirava soltanto dei sospiri fondi e pesanti per dire quanto sarebbe stata dura la vita allora per i suoi fratellini e per le sue sorelline e per lei stessa. Ferdinand, disse con gran pena, ne sarebbe così addolorato se ci vedesse. Mally ascoltava e nel fondo del cuore riconosceva i sommessi gemiti di quella donna. Era la stessa ansia di sua madre, in cerca di pane per sé e per la sua bimba. Si guardò attorno e riconobbe anche la stanza angusta e indigente. Era la stanza della propria casa, la stanza in cui era cresciuta. Il vecchio mondo spoglio di casa sua le tornò davanti, così stranamente affettuoso, ed era così impossibile evaderne. Era come se una mano, era la stessa gelida mano di Ferdinand sulla quale la sua s'era appena posata, l'afferrasse alla gola, e sentì un capogiro e crollò, o crollò tutto quanto le stava attorno. La donna anziana la guardò e col sereno tatto dei poveri mutò discorso. Cominciò a dirle dell'orgoglio che provava Ferdinand ad essere amico della signorina. Dalle labbra di Ferdinand aveva udito raccontare del naufragio più di quanto raccontasse chiunque e aveva seguito i passi di Mally dal ponte alle macchine, dalle macchine al timone. Quando era stata al capezzale del figlio ammalato, aveva dovuto leggergli forte il resoconto pubblicato dalla Gazzetta di Kristiansand, tante volte che oramai lo sapeva a mente. Un sorrisetto le sbocciò sul viso sconvolto dall'ansia, mentre spiegava come, per fargli piacere, lei stessa aveva dovuto ripetere il grido della signorina nel fragore e nello scroscio della tempesta. Ferdinand! Allora Mally si alzò da sedere, pallida come la morte. Guardò la semplice panca e la tavola e l'unico misero vaso di fiori che era sulla finestra e i logori abiti della donna. Alla fine si voltò verso il viso silenzioso che era nella bara, ma questa volta non osò avvicinarglisi. Si limitò a torcersi per un istante le mani in quella direzione con un gesto che era simile a uno strillo, poi tese la mano alla mamma di Ferdinand e se ne andò. Quando tornò a casa, cercò Fru Hösewinkel e le disse: «Sì, Ferdinand è morto ed è una casa tanto povera. Come farà ora sua madre a tirare avanti?» Fru Hösewinkel ebbe pena della ragazza pallida. «Cara Mally», disse, «non ci dimenticheremo della fedeltà di Ferdinand, staremo vicini alla sua povera mamma». Mally la fissò come se non avesse capito quel che era stato detto e stesse aspettando di udire qualcosa che poteva capire meglio. «Figliola cara», disse Fru Hösewinkel, «questa è la felicità del ricco, poter aiutare chi più ha bisogno». Quando la mattina dopo Mally scese, era così cambiata che i suoi ospiti se ne spaventarono. Era di nuovo la ragazza col volto rigido e bianco e i cerchi neri sotto gli occhi, paralizzata in tutte le giunture, che era stata riportata a terra dopo il naufragio. E ora era anche muta, come in quel momento lo era stato Herr Sørensen. Non voleva uscire, ma sembrava anche aver paura a stare in casa e si alzava da una sedia per andarsi a sedere su un'altra. Fru Hösewinkel propose che si mandasse a chiamare il medico di famiglia, ma Mally la supplicò di non farlo, con tanta angoscia che la signora mise da parte l'idea. Allora i familiari, perplessi, la lasciarono in pace e soltanto la padrona di casa seguiva attentamente l'espressione sgomenta di quel giovane viso. Capitolo 13. La tovaglia d'altare. L'amore di Arn circondava Mally di una luce così forte che per Fru Hösewinkel era stato sempre difficile, finché suo figlio era stato in casa, osservare realmente la ragazza. Soffriva sobria com'era, aveva quasi desiderato che gli si allontanasse per avere il tempo di guardarla con pace. L'improvviso e infausto cambiamento avvenuto sul volto e nei modi di Mally la spaventava e non sapeva che cosa pensare. Per qualche giorno seguitò a sentire suo figlio ancora tanto vicino che vedeva Mally con gli occhi di lui. La ragazza era divenuta allora un bene prezioso anche per lei ed ella impiegò tutta la sua abilità nel tentativo di soccorrerla e di confortarla. Ora poi rimproverava a se stessa più gravemente di quanto lo avesse fatto la sera del ballo, di aver avventatamente consentito che Mally fosse l'oggetto della curiosità e dell'omaggio di tanta gente. Ragazza giovanissima, aveva veduto la morte in faccia e subito dopo era entrata a far parte di un mondo nuovo e ricco dove, con tutta probabilità, era stato deciso il corso della sua vita. L'anziana signora pensava che occorre aver forza anche per sopportare la buona fortuna, per quanto dolce essa possa essere. Era dunque necessario metter fine a feste e riunioni perché Mally doveva restare inosservata e indisturbata sotto la protezione della casa. Fru Hösewinkel parlò di questa risoluzione alla stessa Mally e fu come se la ragazza intendesse, per la prima volta dopo la morte di Ferdinand, il significato di ciò che le dicevano. «Sì, inosservata», sussurrò Mally, «non essere soggetta ad altra visita che non sia tua e mia, invisibile ad ogni altro occhio, stupende parole». Ma subito dopo ricadde in potere del suo dolore, pallida e inquieta. La madre di Arne conosceva tanto poco Mally che non riusciva a indovinare che cosa le desse pena. Osservò che alla ragazza era soprattutto intollerabile udir nominare suo figlio. Era come se il suono di quel nome le ferisse il cuore ogni volta. Un terribile pensiero si fece strada per un poco nella mente di Fru Hösewinkel. Era possibile che quella ragazza non fosse del tutto sana di mente? Nessuno aveva realmente conosciuto suo padre, e chi poteva dire quali fantasmi di tempi antichi e dimenticati erano stati ammessi in casa insieme alla coraggiosa fanciulla. Eppure, fino a quel momento, nessuno aveva notato squilibri in Mally, e subito smise di temere. Era qualcos'altro che pesava sulla mente della ragazza, ma che cos'era? Ricordò che era stata la notizia della morte di Ferdinand a far disperare Mally. Che cosa poteva esserci stato tra la ragazza e il giovane marinaio? Riflettendo su questo fatto, ricordò che lei stessa, mentre il suo fidanzamento con Joachim Hösewinkel era ancora segreto, aveva avuto un altro aspirante alla sua mano e ne aveva sofferto. Forse Mally, nella violenza della tempesta, aveva fatto una promessa a Ferdinand e adesso si doleva perché non se n'era liberata in tempo. Piano piano, Fru Hösewinkel arrancava in direzione di quell'idea, talvolta stupefatta per l'insolito ardire della propria fantasia. Ma la ragazza, si domandava, si immagina forse che il giovane mozzo possa uscire dalla tomba e chiedergliene conto? Le fanciulle hanno delle strane idee e possono quasi morirne. Ma perché un dolore segreto sia lenito, occorre portarlo alla luce del giorno. Doveva convincere o costringere Mally a parlare. Per qualche giorno interrogò cautamente la ragazza sulla sua infanzia e sul tempo trascorso nella compagnia di Herr Sørensen. Mally rispondeva ingenuamente a tutte le sue domande. In quel passato non v'erano segreti. Fru Hösewinkel arrivò fino a nominare Ferdinand e le sembrò evidente che Ferdinand non aveva mai dato a Mally altro dolore, oltre la sua morte. La donna anziana fu quasi sul punto di spazientirsi con la giovane che soffriva e non voleva farsi soccorrere. Allora pensò che in questo mondo esistono poteri più forti della volontà umana e decise di appellarsi a loro per la salvezza di Mally. Come si è già detto, era incapace di seccare il cielo con petizioni dirette e questa fu forse la prima volta che gli si rivolgeva con un pretesto personale, ma lo faceva per il bene del suo unico figliolo e perché si era oramai addentrata tanto nella questione da non potersi più tirare indietro, né poteva affidare ad altri il proprio compito. Suo marito era devoto quanto lei e da oltre 40 anni i due recitavano insieme le preghiere della sera. Ma proprio come non le riusciva di credere, sebbene sperasse intimamente di sbagliarsi, che un uomo potesse conquistare la vita eterna, Frau Hösewinkel non riusciva a immaginarsi che un individuo di sesso maschile potesse esporre a Dio una questione sotto forma di preghiera. E così, la domenica seguente andò in chiesa e si raccolse per sottoporre a Dio la sua richiesta. Non domandò né forza né pazienza, perché sapeva come spettasse a lei stessa munirsene, ma pregò che le venisse un'ispirazione per chiarire il mistero e alleviare la tristezza della giovane, perché si rendeva conto di non essere personalmente ricca di ispirazione. Tornò a casa dalla chiesa col cuore pieno di speranza. Frau Hösewinkel, in segno di riconoscenza per la salvezza della Sophie Hösewinkel, desiderava offrire alla chiesa una nuova tovaglia d'altare, un bel lavoro tutto a sfilati, composto di quadrati che potevano essere ricamati separatamente e alla fine riuniti. Lei stessa lavorava su uno di quei quadrati e aveva pregato Mally, istruita nei lavori ad ago da sua madre, di farne un altro. Questa occupazione, che la riportava ai tempi passati, era l'unica in cui la giovane sembrasse a suo agio. Lavorava decisa, quasi senza mai alzare gli occhi. Una domenica sera, la padrona di casa e la sua giovane ospite stavano sedute insieme in salotto a cucire, e nella penombra di quella grande stanza la tela brillava di un bianco delicato al bagliore della lampada a paraffina. Poco dopo, il padrone di casa entrò nella stanza e si sedette con loro due. Capitolo 14. Vecchia gente e vecchi racconti. Il vecchio Joachim Hösewinkel viveva da alcuni anni sotto l'ombra crescente di un destino duro da sopportare, perché gli sembrava includesse una specie di colpa o di vergogna, ma non ne aveva mai parlato con nessuno. Non era un castigo personale o individuale, era la partecipazione a uno stato comune a tutta la razza umana. Vi sono uomini che vivono tanto da arrivare a conoscerla. Aveva cominciato a sentire il fardello della vecchiaia. Nella sua famiglia erano stati longevi ed egli aveva veduto suo padre e suo nonno invecchiare in un modo previsto e rispettato, diventare duri di orecchio e alla fine sordi spaccati. Rigidi di groppone come di modo di pensare, andare in giro come onorabili e onorati monumenti d'una lunga serie di anni e di esperienze. Gli sembrava però che la vecchiaia si rivelasse a lui in modo diverso e per questo fatto, nella propria mente, biasimava la madre di sua madre, che era venuta dall'estremo nord della Norvegia. Egli non si irrigidiva o pietrificava, ma il mondo intero e lui con esso sembrava giorno per giorno perdere peso e dissolversi. Fatti e pensieri mutavano colore come la tinta di una barca che cambia colore perché è stata esposta al vento e alle intemperie. Sulle tavole della barca saltano fuori sfumature anche più belle di prima. Nasce un nuovo gioco di colori, ma tuttavia non sono quelli che dovrebbero essere e bisogna far verniciare la barca di nuovo. Cominciava a essergli difficile tenere i conti e stabilire se le cose che accadevano attorno a lui erano vantaggiose o indesiderabili, di natura gaia o triste, e perfino se nei registri della propria coscienza dovevano essere annotati come crediti o come debiti. Talvolta gli sembrava di non poter più distinguere con esattezza tra il passato e il presente, perché la mente lasciava volentieri andare cose vicine per correre all'indietro, verso tempi già spenti, e i giochi dell'infanzia o le marachelle dell'adolescenza gli diventavano più vivi dei carichi e delle quote del cambio. Aveva paura che chi gli stava attorno scoprisse quel suo declino, ed era diventato molto vigile in ogni suo rapporto con i comandanti delle navi e con gli impiegati. Si preoccupava meno davanti a sua moglie, che l'aveva preso qual era una volta per tutte e adesso di regola gli badava poco, ma gli capitava di scansare la compagnia del figliolo. In se stesso poteva magari godere di un'esistenza senza conti e sentirsi leggero, ma il fatto turbava il vecchio membro di una vecchia famiglia che aveva lottato tutta la vita per tener separati attivi e passivi e pretese da se stesso una giustificazione. Egli sentiva tanto fortemente questa esigenza che l'ansia provata nei giorni del naufragio della Sophie Hösewinkel gli aveva dato per un po' un senso di sollievo, perché in quel caso poteva chiaramente distinguere tra la buona e la cattiva sorte. Poi entrò in casa Mally, una giovane creatura la cui idea dell'universo non poteva essere tanto rigorosa da tracciare confini precisi e che tuttavia, contrariamente al parere di persone competenti, aveva mirato dritto allo scopo e gli aveva salvato la bella nave. Una bimba che meritava ad essere viziata e rallegrata. Tra il vecchio padrone di casa e la giovane ospite sorsero subito un'intesa e una fiducia giocose, come se in seno alla famiglia quei due si appartenessero. Lei lo accompagnava la mattina presto nelle camminate verso il porto e verso i magazzini. Si dava la pena di ricordare canzoni del tempo passato e di cantargliele. E una volta, per ringraziarlo del dono di un uccellino in gabbia, lo baciò sulle guance. Ora che la deperiva o si malinconiva profondamente ed evitava tutti gli altri, l'intesa tra i due era più forte e trovava un particolare mezzo di espressione. Mally rifuggiva da questioni o avvenimenti attuali, ma le piaceva ascoltare racconti di tempi andati, anche semplici novelle da bambini, e il suo vecchio alleato e protettore, col suo buon viso ossuto e i suoi scopettoni bianchi, era lieto di raccontarle esperienze dell'infanzia e novelle che più di 60 anni prima erano state raccontate a lui dai domestici, dai vecchi comandanti delle navi, dai pescatori e dalla madre di sua madre. Diventò quindi una specie di tradizione di casa Hösewinkel che la sera, mentre le signore stavano a cucire vicino alla tavola, il padrone rientrasse dall'ufficio, si sedesse nella poltrona di suo nonno e raccontasse loro una novella. A quell'ora non gli importava che sua moglie lo sorprendesse a indulgere in strane fantasie. Poteva quasi immaginare che lui stesso e Mally stessero correndo mano in mano al crepuscolo in un buio tutto loro. Ma non era un buio sterile. Era la possente notte dalle luci nordiche e in essa le cose vivevano. Gli orsi irsuti e pesanti brancolavano ansimando. I lupi gironzolavano in lunghe file attraverso il nevischio e sulle piane. Gli antichi finni, esperti di stregoneria, ghignavano vendendo dolci venti ai marinai. Il vecchio Joachim Hösewinkel stava in poltrona sorridente, come al riparo della vita, in un rifugio al quale non era ammessa la cattiva coscienza. Quella domenica sera entrò in salotto con una storia già pronta per Mally e subito dopo si mise a narrarla. Stasera, Mally disse, ti narrerò di un grave pericolo che una volta minacciò la casa in cui dimori, che Dio la serbi al sicuro da un altro pericolo siffatto, e anche del nonno di mia nonna, di Jens Abel. A me la storia è stata narrata quando ero bambino. Capitolo 15. La storia di Jens Abel e il suo buon consiglio. Questo vecchio Jens Guttormsen Abel, cominciò a narrare, mentre la luce della lampada che non gli arrivava sul viso ricadeva sulle sue vecchie manone unite, era venuto qua da Seterdalen, dove a quel tempo la gente era ancora mezzo pagana, ma lui stesso era un buon cristiano. Era un uomo da bene, rispettato da tutta la città, già avanti con gli anni, quando nel febbraio del 1717 il grande incendio scoppiò a Kristiansand. Fu un disastro gravissimo. In 6 ore più di 30 case furono ridotte in cenere. Si raccontava che il gran bagliore del fuoco sul cielo poteva essere visto da Lillesand e dalle navi al largo di Mandal. Quella notte soffiava vento di nord-ovest, così che il fuoco, che s'era alzato a Lillegad, serpeggiò subito verso la casa e i magazzini del mio tristissimo nonno a Västerskade, tanto che si credette fossero spacciati. I servi e i commessi di Jens Guttormsen avevano già cominciato a portar fuori i forzieri e i libri mastri, Molta gente si era raccolta di là dalla strada e alcuni di essi piangevano per quel brav'uomo che doveva vedere ridotto a nulla tutto ciò che aveva raccolto nella vita. Il fuoco era tanto vicino che i vecchi della città hanno sempre detto che in pieno inverno faceva caldo in mezzo alla strada come in un forno. Allora, ragazza mia, proseguì il vecchio armatore, Jens Abel uscì fuori con la bilancia nella mano destra e il metro di legno nella sinistra. Si fermò sulla strada e parlava a voce alta così che tutti potessero udirlo e disse: Eccomi qua, Jens Guttormsen Abel, mercante di questa città con la bilancia e il metro. Se nei miei giorni ho fatto cattivo uso di loro, allora vento e fuoco procedete contro la mia casa. Ma se ho adoperato con giustizia questi giusti oggetti, allora voi due, servi sfrenati di Dio, risparmiate la mia casa, perché negli anni che seguiranno possa servire come prima agli uomini e alle donne di Kristiansand. E in quel momento, riferì Jochum Hösewinkel, proprio appena finì di parlare, tutti quelli che erano in strada videro che il vento titubava e per un momento smise completamente, cosicché fumo e scintille si rovesciarono su loro. Ma immediatamente dopo esso mutò e passò dal nord-ovest al nord, e il fumo deviò da Westergade e scese giù per la piazza del mercato. E in questo modo la casa di Jens Abel fu fuori pericolo e le cose che erano appena state portate fuori poterono essere riportate dentro. E il grande orologio che era nella stanza suonò lentamente le 8. E il vecchio narratore e la ragazza in ascolto rimasero in silenzio assorti in quel racconto, come se fossero stati entrambi a Westerskade in quella sera d'inverno. Ma lì avrai veduto, riprese a narrare Jochum Hösewinkel, che non sapeva indurirsi tutt'a un tratto a rituffarsi nella vita d'ogni giorno, avrai veduto la grande Bibbia che è sulla tavola nel mio ufficio, è la Bibbia di Jens Abel, portata nella mia famiglia dalla madre di mio padre. Ha una qualità per cui, se qualcuno di casa, incerto sul da fare, va a chiederle consiglio e lascia che si apra dove vuole, ottiene la risposta esatta a ciò che chiede. Fru Hösewinkel guardò Malli oltre la tavola e in quel momento le parve che la sua preghiera fosse esaudita. Era immobile sul divano, ma seguiva attentamente la conversazione. Posso raccontarti, disse suo marito, come fu che io stesso una volta chiesi consiglio alla Bibbia di Jens Abel. Ma adesso vai di là con una candela e porta qua il libro così che possa trovare il passo esatto. È pesante. Dovrai portarlo con le due braccia e lasciare la candela accesa di là fino a quando lo avrai riportato indietro. Malli andò via con la candela e tornò col libro, portandolo sulle due braccia, e lo posò sulla tavola di fronte al vecchio gentiluomo che l'aspettava. Egli prese gli occhiali, esitò un momento, poi si appoggiò allo schienale e raccontò: Una volta, molti anni fa, mio cugino Giona venne da me perché facessi a metà con lui nell'acquisto di una nave. Per amore della mia buona zia, sua madre, mi rincresceva a dire di no, ma quando riflettei sulla sua persona fui anche più contrario a dire sì, perché era un uomo poco sicuro in tutti gli affari e mi aveva già ingannato in altre occasioni. Mentre lui stava seduto sul divano, impaziente di ottenere una risposta, e io camminavo su e giù per la stanza, tristemente incerto su ciò che dovevo dirgli, lo sguardo mi cadde sulla nostra Bibbia. Oh sì, pensai, dammi un consiglio tu, Jens Abel. Allora l'andai ad aprire, con l'atteggiamento di chi stia cercando qualcosa tra le carte che ha sulla tavola. Essa si aprì al libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 29, e ora ti leggerò quello che lessi a me stesso quella sera, oltre 30 anni fa. Inforcò gli occhiali, si inumidì il dito per voltare le pagine del libro e, quando trovò il punto che cercava, cominciò a leggere lentamente. Molti hanno considerato un credito una pacchia, e han fatto tribolare coloro che li hanno aiutati. Proprio così, pensai, questo riguarda piuttosto da vicino il cugino Giona che mi sta qua dietro. E allora proseguì: È giunto che sarà il tempo di pagare? Chiederà una proroga e darà in cambio parole di rammarico e si lamenterà per i tempi duri. Proprio così, pensai. Stavo per chiudere il libro e voltarmi verso di lui, quando il versetto seguente si fece avanti, come di sua iniziativa, e diceva: Lunghe sono, tuttavia, le sofferenze di un uomo mal ridotto. Non far sì che aspetti la tua elemosina. Perdi il tuo danaro per un fratello o un amico, e ne trarrai vantaggio più che dall'oro. Allora rimasi un momento immobile. Questo dici? Questo dici, Jens Abel? Chiesi. E ora, ragazza mia, posso concludere la mia novella dicendoti che quella buona nave, la Gran Prova, che John ed io comprammo insieme, al suo primo viaggio portò a casa un'eccezionale pescata d'aringhe e subito, lì per lì, mi ripagò di ciò che avevo speso. Ma al suo secondo viaggio, concluse il vecchio dopo una breve pausa e con una nuova espressione sul volto, anzi con un viso nuovo, il viso del narratore di favole, il cugino John accadde in mare al largo di Bodoe, dopo un'allegra serata trascorsa a terra, e in questo modo a sua madre fu risparmiata ogni ulteriore angoscia per colpa di lui. Il vecchio gentiluomo rimase per un poco assorto nei suoi ricordi. Riporta il libro dov'era, Mally, disse, perché anche Arno un giorno dovrà essere capace di trarne consiglio quando qualcuno vorrà truffarlo, e lo stesso dovrà avere lunga pazienza con un uomo mal ridotto. Fru Hösewinkel alzò nuovamente lo sguardo sulla giovane figura di Mally, che s'alzava in piedi, e la seguì oltre la porta. Pochi minuti dopo, marito e moglie dal salotto udirono un gran tonfo sul pavimento della stanza accanto. Trovarono la ragazza distesa in terra davanti alla tavola, come fosse morta, e il libro aperto lì sopra. Fru Hösewinkel non dimenticò mai che in quel momento le parve di udire la voce di suo figlio. Era questo che volevi? Sollevarono Mally da terra e la distesero sul divano imbottito di crine. Ella aprì gli occhi, ma sembrò non vedesse nulla. Dopo un po' alzò una mano e accarezzò il viso del vecchio. È stato un capogiro, Arn, bisbigliò. Fru Hösewinkel suonò per le cameriere e con il loro aiuto sorresse Mally fino al primo piano e la fece mettere a letto. Quando tornò giù nell'ufficio, suo marito era ritto dove lo aveva lasciato a fissare la candela che era accanto alla Bibbia aperta sulla tavola. La guardò e chiuse il libro. Ella fece un gesto per fermarlo, ma egli andò avanti a chiuderne la borchia pesante.